Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Processo per stupro, dal documentario di Maria Grazia Belmonti, Anna Carini, Roni Daopulo, Paola De Martis, Annabella Miscuglio, Loredana Rotondo. Adattamento e regia Renato Chiocca, con Clara Galante, Enzo Provenzano, Tullio Sorrentino, Francesco Lande, Simona Muzzi. Ma lo sa lei per chi parliamo? Lo sa? Perché quello è mio figlio, se no sai quanto me ne fregava a me. Lo sa lei? E non ha fatto niente di male, non l'ha ammazzato a sta ragazza. Si è andato a divertirsi, certo che gli piaceva pure a lei andare a divertirsi. Se no non ci andava con mio figlio, che mio figlio non ci aveva moglie o un figlio. E lei lo sapeva, che telefonava sul lavoro a rompere le scatole. Vabbè. Se lui aveva una moglie o un figlio, perché ci andava? E perché tutti lo fanno? Chi è il primo che lo fa? Suo marito si c'ha o non lo fa? O mica non glielo va a dire a lei? Tutti i mariti glielo le fa, tutti i mariti. Tutti i mariti, perché sono le donne oggi, fanno schifo. Siamo noi donne stesse, fanno schifo. Suo marito non lo fa? Siamo le donne stesse, fanno schifo. A puttane, signora, che cosa mi dice? Cos'è? Perché il marito è una puttane? Ma non lo so. Io c'ho il marito. Perché se il marito la vede una donna, la rifiuta, vorrete lei. No, tutte le prostitute che ci stanno. Non la rifiuta il marito. Guarda, sono stata con una. Ma il marito gli ha detto, io sto con quella, ma no, ha fatto bene. Sì, certo che se lo vedo è mio piacere, no? Ma certo, se gli capo e mi diceva una cosa, vattene! E per qua è giusto, no? Perché... Tutti gli uomini sono così! No. Sono tutti gli uomini così, perché se gli capo la donna, che oggi sono le donne che si buttano addosso agli uomini, perché ne vedo tanti io, ne vedo tanti io! Fatemi vedere! Ma questa era per un anno che andava in giro con tutti! Era più di un anno che faceva finta che andava a lavorare e invece andava con tutti! È lo schifo oggi, signore, quello che è! Dal rapporto giudiziario della Questura di Roma. Accompagnata presso questa squadra mobile, la ragazza denunziava di essere stata condotta in una villa di Nettuno ed essere stata ivi violentata da 4 individui. Precisava di essere stata condotta nella villa da Vallone Rocco, col pretesto di farle conoscere i soci di una ditta di nuova costituzione, di cui ella avrebbe dovuto essere la segretaria. Una volta all'interno della villa, aveva capito che il Vallone aveva intenzione di abusare di lei, per cui aveva chiesto allo stesso di essere subito riaccompagnata a casa. Il Vallone però l'aveva afferrata, l'aveva buttata sul letto e dopo averla denudata l'aveva violentata. Ad un tratto aveva notato nella stessa stanza la presenza di altri 3 uomini completamente nudi, i quali uno dopo l'altro avevano abusato di lei consumando un rapporto carnale completo, per 2 volte ciascuno, a breve distanza l'uno dall'altro. Dichiarava inoltre che il Vallone aveva vinto le sue resistenze colpendola con degli schiaffi al viso e minacciandola nel contempo di morte. In seguito a questa denuncia sono stati spiccati 4 mandati di cattura per i reati di ratto a fine di libidine e violenza carnale. Gli imputati, al momento dell'arresto, ammettono spontaneamente di essersi resi responsabili dei fatti denunziati. Interrogati successivamente, negano di aver avuto rapporti carnali con la ragazza. In istruttoria, infine, ammettono i fatti, ma affermano che vi era stato un preventivo accordo per un compenso di 200.000 lire. Il processo ha luogo dopo 8 mesi di detenzione per 3 degli imputati. Il quarto è ancora latitante. Tribunale di Latina, 1978. Vediamo allora. Tutti gli imputati sono rappresentati dall'avvocato Giorgio Zeppieri. Ecco, signor Presidente, per gli imputati detenuti vengono offerti lire 2 milioni. a titolo di risarcimento dei danni. I 2 milioni sono qui e vengono messi a disposizione, senza ammettere alcuna responsabilità. Quindi l'offerta è un'offerta seria, concreta, e vengono messi a disposizione a titolo di risarcimento dei danni per quanto concerne gli imputati Vallone, Novelli e Vagnoni. Solo per questi 3 imputati, Presidente. Vedo che il sistema di Napoli, della mazzetta, buttata così sul tavolo dei giudici, ha fatto scuola. No, non cominciamo. Certo, no, certo. Sono il difensore di parte civile già costituita in istruttoria, Presidente. Ma lei ha ragione. Lei è l'avvocatessa? L'Agostena Bassi, del Foro di Roma. L'avvocatessa L'Agostena Bassi, per quanto riguarda questa offerta di risarcimento? La parte civile mi ha già dato queste istruzioni. Vuole una lira, simbolica naturalmente, perché il danno che una donna subisce per una violenza carnale è incommensurabile e non si può risarcire con una mazzetta. E poi la somma di giustizia che lei riterrà opportuna, devoluta al Centro contro la violenza alle donne, via del Governo Vecchio, Roma. Quindi respinge l'offerta di risarcimento? No, improprio, chiede una lira simbolica. E la somma che lei deciderà, comunque devoluta al Centro contro la violenza alle donne. Signor Presidente, qual è la ragione? La motivazione del rifiuto. È che noi riteniamo estremamente offensiva questa prassi instaurata di posare, se non anche gettare la mazzetta, scusate il termine, mazzetta, sul tavolo dei giudici. Per quale ragione? Signor Presidente, siccome sorgerà, lo dico subito, non è che noi per un motivo... Ha detto che è incommensurabile il danno ricevuto. Ho detto... È incommensurabile il danno che una donna subisce per una violenza carnale. Allora, voglio avvertire il pubblico che alla prima manifestazione che può turbare la serenità del dibattimento io faccio sgombrare l'aula. Non si ammette il minimo sussurrio né di approvazione né di disapprovazione né di sollecitazione. Anche perché dovrebbe essere a porte chiuse, Presidente. Va bene, dovrebbe. Questo non... Sedetevi. Per il momento ancora non sorge il problema. Dovrebbe, non dovrebbe. Nessuna legge impone questo obbligo di procedere a porte chiuse. E allora, ancora non sorge il problema. Fate entrare la parte civile. E prima ancora che cominci il dibattimento, hanno offerto la somma di lire 2 milioni, depositandola lì, per risarcire i vostri danni. Voi ritenete che sia congrua questa somma a risarcire il danno da voi riportato dal reato? No. Non l'accettate perché ritenete che sia inadeguata o perché per ragioni morali? Per ragioni morali, non voglio niente. Però lei ha detto che la somma comunque stabilita sarà devoluta al Centro contro la violenza alle donne. Vabbè. La Corte si ritira per decidere con queste eccezioni preliminari. Lasciamoli sfogare, è meglio. La rapidità ci giova, perché stramatizza. Per il giudice il processo è già finito. Il Tribunale, sulle opposizioni a costituzione di parte civile sollevate dai difensori degli imputati, sentiti i difensori della parte civile e il pubblico ministero, osserva: primo, per quanto riguarda l'estromissione della parte civile di Fiorella, già fatta in periodo istruttorio per preteso risarcimento danni, ritiene che gli elementi acquisiti allo Stato non sono tali da far ritenere la congruità della somma offerta per il totale risarcimento dei danni materiali e morali sofferti. Secondo, per quanto riguarda l'opposizione alle costituzioni delle parti civili del Movimento Femminista di Latina e del Movimento di Liberazione della Donna, rileva che le dette associazioni non sembrano allo Stato avere la legittimazione attiva necessaria per esperire utilmente l'azione civile in questa sede penale. Per questi motivi ne rigetta l'opposizione alla costituzione di parte civile di Fiorella. Si dà atto inoltre che Palumbo Roberto si è costituito in esecuzione del mandato di cattura emesso in periodo istruttorio. Dispone quindi procedersi oltre nel dibattimento. Avanti con il primo imputato. Come fu che quel giorno, il 7 ottobre, vi riuniste agli altri? Ecco, io mi trovavo per caso dentro, in questo bar, il bar De Amicis. Stavo lì al bar a fare una partita a flipper. A flipper? Quando si è avvicinato il vallone e mi ha detto che ci stava Fiorella, che aveva bisogno di un prestito, e se ero disposto ad andare con lei per la somma di 50.000 lire. Insomma, la vostra quota sarebbe stata di 50.000 lire. Il vallone vi disse che la ragazza aveva urgente bisogno di quella cifra, che la voleva proprio la sera stessa. Vi fece capire questo? Cioè, ha detto che era disposta a venire, ad andare con qualcuno, ad avere rapporti con qualcuno per la somma di 200.000 lire. Non è che ha detto che gli serviva proprio quella sera stessa. Eh beh, nessuno l'ha specificato questo. Questo a me non lo ha detto. E voi non vi siete informati? Insomma, voi andate al mercato, vi trovate a comprare un apparecchio radio, costa tanto, andate con l'intenzione di acquistare e non vi siete interessati di sapere se, almeno integrando la parte l'uno, la parte l'altro, potevate raggiungere questa cifra. Cioè, io, come ripeto, io c'avevo solo 30.000 lire, però potevo rimediare dagli altri che ce l'avevano, insomma, no? Dopo il fatto, quando stavate ripartendo per Roma, la ragazza insistette per avere quella somma o no? Sì, ha detto che voleva, cioè faceva presente. E perché non le avete dato almeno in parte, almeno quello che ci avevate? Perché, come ripeto, il rapporto, cioè perlomeno per me, non era stato soddisfacente, non valeva la pena, ecco. Ah, avete capito? Non era stato soddisfacente, neanche 30 valeva. Come? La ragazza dice che voi avete fatto tutti e quattro, voi invece pare che vi siate fermato alla prima stazione. Voi, personalmente, vi siete fermato alla prima stazione, vero o no? Cioè, non avete avuto un rapporto carnale vero e proprio? No, io non ho avuto un rapporto, cioè, perlomeno io gli ho messo solo membro in bocca e basta. Non ho avuto un rapporto carnale. Io vorrei sapere se ha avuto eiaculazione, cioè un coito completo oppure no, ecco, capito? Non ho avuto un rapporto completo io. Siete arrivato al godimento o no? Sì, in quanto in quell'attimo lì, cioè... Basta così. Avanti con il secondo imputato. Dunque, la prima domanda è questa. Avete detto che più volte... Dove consumavate i vostri rapporti carnali? In macchina. Perché in macchina? Perché essendo sposato... La macchina di chi è? La mia. Comunque non c'è bisogno di dare delucidazioni perché essendo sposato, anzi, proprio perché essendo sposato sarebbe stato bene andare a casa. In macchina e di notte. Di notte. E quanto gli davate ogni rapporto carnale in denaro? Io la portavo a cena. In denaro quanto gli davate? Ma lei, una volta che siamo usciti col vallone... No, una volta, io voglio sapere... Voi più volte andavate, no? Di volta in volta avete stabilito una tariffa o no? No. Quindi aspettate, non c'era una pretesa, un accordo preciso di pagamento, solo che la portavate a cena. Esimo a cena oppure al bar, ecco. Ma sempre? Mo io mi ricordo di quella volta là, e poi quella volta... Che siamo andati al fungo. Quindi soltanto delle consumazioni al bar o al ristorante. Ecco, allora, come mai, potendo avere rapporti normali, come dice lei, no? Consueti, un bar, un caffè, il ristorante, una sigaretta, come mai lei si è dichiarato disposto ad offrire a Fiorella la somma di 50.000 lire per una cosa che, francamente, avrebbe potuto avere... Così, gratuitamente, no? Gratis. E infatti mica gliel'ho dato. Perché gli ho dato? Ah, ecco. Perché gli ho dato? Ma che vale 50.000 lire, vale? No, capito, vale 50.000 lire. Secondo voi la ragazza vale più di 50.000 lire? Ma sarà meglio mia moglie, vabbè. Sarà meglio mia moglie, vabbè. Vabbè. Comunque potevate allora starvene con vostra moglie, no? Allora dice, dice... Allora, Roberto, mi raccomando, fai attenzione, perché non ho preso la pillola. Oh, mi ha detto queste testuali parole. Come ha detto? Non ho preso la pillola. Davanti a Vallone? Sì, sì, davanti al Vallone. Voi come vi siete presentato? Vestito o nudo? Vestito. Ah, vestito. E certo, vestito, perché me lo sento nudo? E mentre c'era Vallone, voi vi siete congiunto con questa ragazza o il Vallone è uscito? No, era uscito, penso. Penso. E voi qua fate un sacco di pensamenti, però, Penso, dico, faccio. Cercate un poco di... È che io non è che guardo mentre faccio l'amore, no? Noi siamo degli ingenui, purtroppo dobbiamo sapere, siamo inesperti. Sì, ma è che io non sono abituato. Appunto dico, voi trovate una donna con cui dovete consumare un rapporto carnale. Trovate che c'è un altro uomo con il quale voi già pensate che ci sia stato un rapporto carnale e non aspettate neanche che se ne esca quello. Vallone lo conoscevate? Sì. Vallone sapeva che voi avevate avuto questi rapporti vari in precedenza? Beh, io adesso questo non glielo so dire perché vede, io sono un ragazzo serio, però glielo può chiedere a lui se eventualmente... Potete... Voi non avete fatto nessuna confidenza. È un ragazzo serio. No, non facciamo commenti. Eh sì, perché lei è una ragazza seria, no? Lei che esce alle 4 di notte con due uomini dentro una macchina, è lei una ragazza seria, no? È lei... Fate entrare il terzo imputato. Com'è che siete andato senza soldi? Chi è che andavo senza soldi? Io i soldi ce l'avevo. Ah, ce l'avevate i soldi? E perché non l'avete pagata la ragazza? Perché non mi ha soddisfatto. Perché non vi ha soddisfatto. Non mi ha soddisfatto e non gli ho dati. Avete avuto rapporti carnali? Ah, il pubblico non può fare segni di approvazione o di disapprovazione? Allora? Avete avuto rapporti carnali? Sì. Quante volte? Una volta. La ragazza dice due e voi dite una. La ragazza dice tante cose. E com'è che non vi ha soddisfatti? In che senso? Beh sì, ecco... Insomma, non glieli volevo dare. Ma non vi andava di darglieli i soldi. Quindi non volevate avere la soddisfazione di cacciare i soldi. Beh, così, insomma... La volevo truffare, non glieli volevo dare, ecco. Come? Frodare, presidente. Ah sì, ecco, volevo dire frodare, non truffare. Avvocato? Ecco, conosce il Giaccari, lei? Prego, conosce il Giaccari? Presidente, vogliamo mettere agli atti che non risponde? Vogliamo Giaccari. Mettere agli atti che abbiamo dovuto dirgli noi? Chi è il Giaccari? Cioè il suo cognato, ecco. Giaccari. Suo cognato. Giaccari sarebbe il cognato di Vagnoni. Esattamente. Lui è Vagnoni. Esattamente, dunque suo cognato. Ecco, allora vorrei sapere come mai lei è andato il 2 di febbraio a casa di suo cognato il Giaccari e lo avrebbe pregato di offrire a Fiorella la somma di 1.000.000. Perché? Perché? Perché non parlasse forse? Perché sono giudice, lo sono pregiudicato. Sì, ma questo lo ha ammesso, infatti, avvocato. Infatti. Io sono pregiudicato e temevo che in qualche maniera, insomma, mi... No, presidente, mi scusi, ma siccome noi sentiremo anche il Giaccari che darà le sue di risposte, mi dispiace, ma tra quello che dice lui e quello che dice il Giaccari ci passa di mezzo il mare. Comunque lui conferma quella versione che ha dato. Certo, la conferma, ma io ho bisogno delle motivazioni. La circostanza è assolutamente pacifica. È vero che voi avete pregato, avete mandato vostro cognato, il quale ha offerto 1.000.000 alla ragazza perché in eventuale sede di confronto dichiarasse di non riconoscervi? Perché siccome che io non avevo dato le 50.000 lire che dovevo, insomma, ecco, io quindi Io volevo darmi non, insomma. Va bene, va bene, basta così. Fiorella, prego. Prego. Avete bisogno di un sostegno morale? Non c'è bisogno. Come vedete, siete qui. Siamo tutti padri di famiglia. Non c'è bisogno che guardate la vostra madre adottiva. Voglio dire questo. Quando avete firmato, ve l'ha riletto il funzionario con attenzione quello che era stato scritto, sì? Non mi ricordo. Per cui, allora, come fate adesso a dire io confermo la denuncia? Davanti al giudice istruttore. Me l'ha riletta. Ve l'ha riletta il giudice istruttore. Confermo la denuncia. La dichiarazione resa al giudice istruttore, il quale, quando mi interrogò, me ne dette dettagliata lettura. La domanda è questa. No, perché sono stati veramente molto precisi, tanto il Vallone quanto il Novelli, nel dire che invece loro avevano avuto rapporti carnali con voi, ecco. Non è vero. Non è vero. State seduti! E allora? Ma qualche volta avete fatto delle passeggiate assieme in macchina? Dunque, io a volte lo incontravo quando uscivo da scuola. Facevamo la stessa strada. Chi incontravate? Rocco. Ah, Rocco Vallone. Il quale mi accompagnava e mi faceva portare la sua auto. È vero che una di queste volte in cui andavate in macchina ci fu pure una contravvenzione? Siamo stati fermati dai carabinieri o dalla polizia. Però ora non ricordo se fu appunto per accertamenti oppure una contravvenzione. E che ora era? Non lo so. Era di giorno o di sera? Di sera. Era di notte. Che ora era? Di sera. Era di sera, va bene, dai. E qua, è questo macroscopicamente, questo bisognerebbe incriminare per falso tutti quanti. Erano le 0:30. È scorretto, Presidente. No, Avvocato, è completamente corretto. È quello che dobbiamo specificare. Avvocato, ma che importanza ha se il 7 marzo la ragazza è andata a passeggio, pure di notte, ma insomma, no, andiamo avanti. Vada avanti, Fiorella. Il Vallone mi ha portato di forza sul letto. Io ho fatto resistenza e mi ha schiaffeggiata. L'ha schiaffeggiata? Benissimo. Sì. E poi sono arrivati. Cioè, mi ha tolto gli abiti di dosso con forza e sono arrivati gli altri. Ma quando sono arrivati gli altri con Vallone, come si chiama? L'avevate avuto già un rapporto? No, ancora no. Niente, benissimo. E il primo con il quale avete avuto rapporti, chi è stato? Il primo dei quattro? Vallone. Mentre io stavo sul letto, mi sono venuti tutti addosso. A questo punto non ho più fatto resistenza e ho ceduto alle voglie dell'individuo, anche perché mi disse: state zitta, perché sennò ti ammazziamo. Signor Presidente, la signorina ha detto tutti mi hanno minacciata. Allora, uno, il pavone e il palombo mi ha minacciato con un bastone. Adesso per favore ci descriva come l'ha minacciata. Prima mi avevano minacciata di morte, dopodiché, dopo che avevano abusato di me, e siamo ritornati nel salottino. Cioè, sono stata costretta purtroppo a seguirli e lì c'era il palombo che mi buttava questo bastone, rideva. Che significa puntava? Non mi ricordo. Però mi ha messo paura. Aveva un bastone in mano. Insomma, un uomo che ha un bastone in mano e che ride. E questo come vogliamo che chiarisca, oltre la testimone? Vogliamo la dichiarazione. Dire avvocato Zettieri, dica. Allora, se la testimone ha praticato l'affellazio, a chi l'ha praticato? E se qualcuno ha avuto l'eiaculazione in ore? Perché se è già confermato, noi possiamo pure passare alla discussione e facciamo un istruttore dibattimentale. Vabbè, allora io dispongo che sia chiusa l'aula a questo punto, per questo atto, va bene? Fate sgombrare l'aula immediatamente, tutti, e fate venire il vallone. Voi avete detto che avevate già avuto rapporti carnali. Ma sì, ma delle cene, ecco, io sto a parlare delle cene. No, le cene lasciamole stare, le cene. Lei dice che non c'era mai venuta prima con me. Io sto parlando di cene. Io ho detto sono che a letto con te non ci sono mai venuta. Innanzitutto ci sei venuta quando siamo andati a Poli, per esempio, e siamo andati a letto col 128 mio. Non è vero. Si spogliava, che faceva? E facevamo come tutte quante le coppie, no? Andiamo giù al prato, mettiamo i giornali e si spogliamo nudi e facevamo l'amore. Non è vero, e lo sai che non è vero. Dico, guardami in faccia quando lo dici. E che te sto guardando in faccia? E che mi stai a rovinare? Ah, io te sto rovinando. E tu a me che mi hai fatto? Non mai rovinato? Mi stai proprio rovinando. Diamo atto di questo scambio di rovine. Presidente. Giudici. Innanzitutto credo sia importante iniziare spiegando una cosa. Perché noi donne siamo presenti a questo processo. Ed intendo dire, prima di tutto Fiorella, poi le compagne presenti in aula ed io, che sono qui prima di tutto come donna e poi come avvocato. Allora, che cosa significa la nostra presenza? Ecco, noi chiediamo giustizia, non chiediamo una condanna severa, esemplare, pesante, no, non ci interessa la condanna. Noi chiediamo che ci sia resa giustizia, che è una cosa profondamente diversa. E che cosa intendiamo quando chiediamo giustizia come donne? Ecco, noi chiediamo che anche nelle aule dei tribunali e attraverso ciò che avviene nelle aule dei tribunali si modifichi quella concezione socioculturale di questo nostro paese. Si cominci a prendere atto che la donna non è un oggetto. Noi donne abbiamo deciso, e Fiorella, a nome di tutte noi le siamo solamente a lato, perché la sua decisione è completamente autonoma, di chiedere giustizia. Ecco, questa è la nostra richiesta. E certo, io non sarò troppo lunga, ma devo purtroppo prendere atto, e mi scusino i colleghi, e se anche da parte di questo collegio si è trattato il caso Fiorella e con lei tutte le donne come donne e non come oggetti, ancora una volta devo prendere atto che la difesa dei violentatori ancora considera la donna come solo un oggetto e con il massimo disprezzo. E vi assicuro che questo è l'ennesimo processo che io faccio, ed è come al solito la solita difesa che io sento. Allora vi diranno gli imputati, svolgeranno quella che è la difesa, che a grandi linee noi abbiamo già capito, no? Ed io mi auguro di avere la forza di sentirli, e non sempre ce l'ho, lo confesso, di avere la forza di sentirli senza dovermi vergognare come donna e come avvocato per la toga che tutti insieme noi portiamo. E certo che la difesa è sacra, è inviolabile, è vero, ma nessuno di noi avvocati, e qui parlo come avvocato, si sognerebbe mai di impostare una difesa per rapina così come si imposta una difesa per violenza carnale. E mi spiego. Nessuno di noi avvocati si sognerebbe mai di suggerire agli imputati, perché è così che inizia una difesa, con i primi suggerimenti degli avvocati agli imputati. Ecco, nessuno si sognerebbe, nel caso di quattro rapinatori che entrano in una gioielleria portando via oro, gioielli, dunque beni patrimoniali sicuri da difendere, ecco, nessuno si sognerebbe, noi avvocati, di suggerire ai rapinatori, vabbè, dite però che è il gioielliere che ha un passato poco chiaro, dite che il gioielliere è un usuraio, dite che il gioielliere, ma in fondo è un ricettatore, è uno che specula, è uno che guadagna il gioielliere, è il gioielliere che non paga le tasse. Ecco, nessuno di noi avvocati si sognerebbe mai di iniziare una difesa di questo tipo infangando la parte lesa soltanto. Ed allora, ecco, io mi domando, ma se al posto di quattro oggetti d'oro, perché? Se al posto di quattro oggetti d'oro l'oggetto del reato è una donna in carne ed ossa, perché ci si permette di fare il processo alla ragazza, il processo alla donna. Dunque la vera imputata è la donna. E questa è una prassi, eh? Però scusatemi, ma se si fa così, allora scusatemi la franchezza, ma questa è solidarietà maschilista. Perché solo se si trasforma la donna in una imputata si ottiene che non ci siano denunce per violenza carnale. Ed allora io non voglio parlare di Fiorella, io non sono qui a parlare di Fiorella nel senso a dire, io credo che sia umiliare una donna venire qui a dire non è una puttana, non è niente, no, una donna ha il diritto di essere quello che vuole, senza bisogno di difensori. Ed allora io non sono qui come difensore di Fiorella, io sono qui come accusatore di un certo modo di fare processi per violenza. Ecco, qui si cerca di infangare tutto, no? Una povera ragazza alla ricerca disperata di lavoro, e che lavoro fa? Lavoro nero, signori, viene sfruttata per 70.000 lire al mese a lavorare dal Giordano, che se andasse per le strade certo non avrebbe bisogno di guadagnare questa cifra, no? Di lavorare per 70.000 lire al mese, perché è questo ciò che guadagna. Allora pensate, una violenza carnale ad opera di quattro, durata un intero pomeriggio, con sequestro in villa, viene valutata 2 milioni, mentre il silenzio di Fiorella viene valutato 1 milione. E questo vi prego di tenerne conto ai fini dell'esame della congruità dell'offerta del risarcimento. Bene, questa ragazza, alla quale viene offerta la somma di 1 milione e ne avrebbe pur bisogno di questi soldi, ma li vuole guadagnare pulitamente, però onestamente, col proprio lavoro, anche se lavoro nero, cosa fa questa ragazza? Fa finta di accettare, dice ne parliamo domani, prende tempo. E non mi sto a rileggere tutto, sono le 7 del mattino, alle 8 ci sono delle telefonate, alle 11 Fiorella è già al commissariato a denunciare. E poi Altra cosa, il maresciallo è stato fin troppo chiaro, voglio leggere le sue parole, quando ha detto: quando sono andato a fermare il vallone, se lo aspettava e mi ha detto: ah sì, siete qui per i fatti di Fiorella. Certo, per i fatti di Fiorella. Ora dico, ma se i fatti di Fiorella erano che c'erano stati dei rapporti carnali a pagamento, non a pagamento, ma insomma con una donna consenziente, ma com'è avrebbero potuto aspettarsi la polizia? Strano, no? E poi la seconda parte, quando vengono arrestati, portati a Regina Coeli, al pubblico ministero, negano, completamente negano l'evidenza, quando poi invece al maresciallo successivamente confesseranno di aver avuto rapporti carnali con la ragazza. Allora dico, ma chi è che l'ha detto che occorre la pistola? Chi è che ha detto che occorrono le botte? Una volta sì, forse sì, nel Medioevo, vi ricordate? La giurisprudenza del decennio scorso solamente. Vis grata puelle. Violenza gradita alla fanciulla che si ammanta di pudicizia. Signori, oggi i costumi sono cambiati però. Oggi se una ragazza vuole andare con un ragazzo ci va. E ci va molto più semplicemente, senza dover tener conto di questa sentenza, pur bella sentenza, ma destinata a crollare come le mura di Gerico. Allora, a nome di Fiorella, a nome di tutte le donne, e sono molte, ma l'ora è tarda, noi chiediamo giustizia. Ecco, questa è la nostra richiesta. E l'ho detto, non chiediamo le condanne, non ci interessa la condanna, ma chiediamo che ci sia resa giustizia. Dunque, vi prego, date giustizia, fate giustizia a Fiorella e con lei renderete giustizia a tutte le donne, anche a quelle che vi sono più vicine, anche a quelle povere donne che per loro disgrazia sono costrette vicino agli imputati. Ecco, questa è la giustizia che noi vi chiediamo per ciò che concerne il risarcimento. L'ho già detto, una lira. Una lira solamente a questa ragazza, così venale, che va con uomini per soldi su cui voi siete pronti a gettare il fango e lo getterete il fango. Ecco, questa ragazza, così venale, vuole, chiede una lira. E la somma ritenuta opportuna, devoluta comunque al centro contro la violenza alle donne. Perché queste violenze siano sempre meno. E perché le donne che hanno il coraggio di rivolgersi alla giustizia siano sempre di più. Io intanto devo esprimere il mio disagio per la mia scarsa dimestichezza per le ideologie, anzi dirò di più, della mia antipatia per le ideologie, un'antipatia chiara per quella marxista, per quella cattolica, ma per tutte. Perché ho il sospetto che le ideologie, che io non stimo niente, perché secondo me l'ideologia non è nient'altro che un pensiero cristallizzato. In genere chi non ha idee ha un'ideologia. Le ideologie creano, adesso non dico delle impostazioni fanatiche, ha delle impostazioni preconcette. Si mescola quello che è un caso particolare con quello che si crede un caso generale. Adesso figuriamoci, questa ideologia femminista. Ma signori, vi confesso che noi pensiamo sempre alle donne, parliamo sempre delle donne, siamo pazzi delle donne e rispettiamo. Ci alziamo in tram per offrire il posto. Le trattiamo con discrezione. Non facciamo confidenze se uno di loro in un momento di distrazione ci concede i suoi favori. Anzi, di più, li stimiamo per questo. Non disapproviamo la prostituzione, che in tempi lontani e anche in tempi vicini ci può aver visto partecipi di momenti di piacere. Ma cos'è questo odio repressivo? Questo giudizio contro chi dedica la sua vita a dare piacere agli altri? È l'effetto dell'ideologia. L'ideologia repressiva agisce così e vige in tutti i paesi mediterranei e anche in Italia. Tutte le donne sono puttane, meno mia madre, mia moglie, mia sorella. E l'ideologia in corso. Ma tempo andato, non più in auge. Signori, la recisione era netta. La puttana era puttana al 100%. La madre, santa al 100%. A imitazione della Madonna, della Vergine. Signori, infatti, guardatemi in concreto. Qui si tratta di una ragazza, adesso senza offesa, anche perché, signori miei, io non ho una cattiva opinione delle prostitute e so benissimo che civiltà superiori alla nostra, quale l'Italia del Rinascimento, chiamava le prostitute cortigiane e le onorava nelle corti rinascimentali introducendole nelle arti, dove imperavano, che il Giappone, ma l'antica Grecia, ne faceva delle sacerdotesse. Quindi questa ragazza, che non versa in floride condizioni economiche, ha degli amici amanti. Non so, non c'è amore, non c'è innamoramento, ma c'è consuetudine al piacere, c'è amicizia dei sensi, c'è condiscendenza del sentimento. Questa ragazza ha reagito con la sua generosità romanesca, poi ha inventato la sua storia, ha portato la sua accusa, adesso viene in udienza sull'incrociatore del femminismo con tutte le bandiere al vento. E chi la ferma più? Ma l'altra volta tutte queste signorine vennero alla corte d'assise a fare le fiche, e se fossero stati maschi a fare si sarebbe gridato da tutte le parti. Ma che cosa dice oggi la gentile avvocatessa Lagostena e mette a verbale? Io ho fatto mettere a verbale questo. La presenza delle donne può condizionare gli avvocati. Può talvolta condizionare gli avvocati nelle loro brutali espressioni. Perché noi a priori siamo brutali. Anzi, commettiamo. Come ha detto e ha ripetuto prima, e io segno tutto, violenze psichiche, violenze verbali. Signori, io parlo in latino per alludere agli organi sessuali, ma la signorina dice: noi non siamo fighe, noi non siamo qua. Ma qui si stanno rovesciando i termini, questi non stiamo attenti, ci violentano, signori miei. Signori, una violenza carnale con fellazio può benissimo essere interrotta con un morsetto. Passa immediatamente la voglia a chiunque di continuare. Il coito orale quindi mal si coniuga con l'ipotesi della violenza carnale. Tutti e quattro avrebbero incautamente abbandonato nella bocca della loro vittima il membro. Parte che per antonomasia è la più delicata dell'uomo e su cui mi si consenta. Il coito orale si compie con una prestazione tecnicamente qualificata. e si esprime con una serie di atti voluti, perché non c'è attività tecnica se non c'è volontà. E se io lì mi posso abbandonare, ma io lì non mi abbandono, perché sono io che posseggo. Ecco, il possesso è stato esercitato dalla ragazza sui maschi, dalla femmina sui maschi. È lei che prende, è lei la parte attiva. Sono loro, inermi, passivi, abbandonati nelle fauci avide di costei. Ma che cosa pratica il vallone con la signorina di cui era l'amante, l'amica amorosa? E fu in quell'occasione l'amante e l'amica amorosa. Si fa praticare il cunnilingus. È il suo amico amoroso che si inginocchia e la bacia su quella che il divino Gabriele, il suo corregionale, signor Presidente, signor Giudice, chiama la seconda più trepida bocca, da cui sorge il piacere di lei. Quindi che cos'è il cunnilingus? È più che l'amore, è l'adorazione sessuale, e tende al piacere della femmina. E chi la pratica? Il violentatore? È il violentatore che si inginocchia, bacia, adora? Signori, vedete quindi l'incompatibilità fisiologica sessuale. È l'amante che può compiere questi gesti. Una volta una signora, interrogata su questo punto, mi disse: è un grande atto di omaggio che implica confidenza anche nella purezza fisiologica della persona. Bene, il vallone inizia con un cunnilingus lungo, penetrante, suggestivo, suadente. Quindi il rapporto fra tutti non ha inizio con uno schiaffo, ha inizio con il più penetrante atto d'amore del maschio per la femmina. Un atto in cui c'è sessualità, adorazione, rispetto. Sì, rispetto. C'è anche rispetto. E quindi, signori miei, tutto ciò è incompatibile con la violenza carnale. Ma perché? Che cos'è la violenza carnale? È il contrario della sessualità. La violenza carnale non è nient'altro che quella voglia insana, demoniaca, di calpestare il proprio simile, l'altro essere umano. E non c'è mortificare, non c'è umiliare, non c'è quasi mai desiderio, non c'è quasi mai piacere. Signori, noi abbiamo fatto l'altro processo, quello del Circeo, che è stato riferito. E cosa abbiamo scopato? Cosa abbiamo scoperto? Lì c'è una violenza sessuale chiarissima. Lì c'era l'impotenza, signori miei. C'era l'impotenza dei violentatori. In realtà, quello che abbiamo appena ascoltato si commenta da solo. Ed è la ragione per la quale migliaia di donne non vanno a denunciare, non si rivolgono alla giustizia. Ed allora voglio dire, devo dire per onestà, perché ho accettato, perché sono qui stasera. Due motivi. Uno è certo un senso di correttezza nei confronti di Fiorella, e l'altro è una ragione, un motivo che, lo ammetto, forse non entra nel processo, ed è un articolo di giornale che ho letto qualche giorno fa, Paese Sera, edizione della notte. Ho letto di un'ulteriore violenza ai danni di una ragazza di soli 17 anni, che non dirà bugie perché è sordomuta, ma è stata molto, molto malmenata per aver fatto quella resistenza che qui si nega ci sia stata. E allora mi domando che cosa sarebbe potuto accadere. Erano quattro uomini. Ah, certo, come dice l'avvocato, uno può dare un morsetto. Può dare un morsetto, dice, e rischiare la vita però. Perché l'avrebbe rischiata la vita, e noi donne lo sappiamo, ricordiamo che cosa è accaduto a quelle che hanno tentato di ribellarsi alla violenza. Perciò per me c'è violenza, anche senza una resistenza di questo tipo non ci può essere una parola o l'altra. Qui c'è stata la presa in giro della buona fede di una ragazza che è andata con il vallone perché lo conosceva, perché fino ad allora c'erano stati rapporti normali, perché era uno più anziano di lei, uno sposato con moglie, uno al di fuori di ogni altro sospetto. Io ho finito. Affido a voi la giustizia, anche per quella ragazza che non ha voce, per chiedere giustizia. In nome del popolo italiano, visti gli articoli 483, 488, 489, codice di procedura penale, dichiara gli imputati Vallone Rocco, Novelli Cesare, Palombo Roberto e Vagnoni Claudio colpevoli dei reati a loro ascritti e unificati sotto il vincolo della continuazione, con le circostanze attenuanti generiche per tutti e con la circostanza attenuante del risarcimento del danno a favore del Vallone, del Vagnoni e del Novelli. Dichiarata congrua la somma di 2 milioni offerta a titolo di risarcimento del danno dai suddetti alla parte civile per Fiorella e che rimane a disposizione della medesima. Ritenuta la prevalenza di tali attenuanti sulla recidiva contestata al Novelli, condanna Vallone Rocco, Novelli Cesare, Vagnone Claudio alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ciascuno e il Palombo alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, nonché al risarcimento dei danni a favore della parte civile Fiorella da liquidarsi in separata sede e dalla refusione delle spese sostenute dalla stessa parte civile a titolo di assistenza e difesa, liquidate in lire 435.000, di cui lire 300.000 per onorario di avvocati e tutti al pagamento delle spese processuali. Concede ai suddetti Vallone Rocco, Novelli Cesare, Palombo Roberto, Vagnoni Claudio il beneficio della libertà provvisoria e ne ordina l'immediata scarcerazione, se non detenuti per altre cause. L'udienza è tolta. Lo spettacolo Processo per stupro, dal documentario di Maria Grazia Belmonti, Anna Carini, Roni Daopulo, Paola De Martis, Annabella Miscuglio, Loredana Rotondo. Adattamento e regia Renato Chiocca, con Clara Galante, Enzo Provenzano, Tullio Sorrentino, Francesco Lande, Simona Muzzi. L'agenda della settimana teatrale. Con Sandra Toffolatti e Paola Rota della direzione artistica di Condominio, un progetto che va dal 30 luglio al 16 agosto 2020 sul sito internet del Teatro Argentina di Roma. Ben trovate. Ciao. Il tutto all'interno del progetto Verso il ritorno. Sì, è un primo tentativo di ricominciare con il teatro e lo si fa in spazi condominiali, sui terrazzi, nei cortili, in spazi condominiali ed è un primo tentativo di far paura agli attori e di ritornare a teatro. è nata durante proprio il lockdown, periodo di chiusura per tutti, dove tutti in qualche modo abbiamo scoperto o riscoperto o ritrovato gli spazi comuni, che sono le terrazze condominiali, i giardini dei palazzi, e per la prima volta qualcuno ha iniziato a ritrovarsi, perché purtroppo sono spazi un po' persi per la vita che facciamo tutti, le corse, e molto spesso ci sono persone che non si conoscono neanche all'interno della propria scala del condominio, e proprio durante il lockdown invece molte persone si sono incontrate, parlate per la prima volta. Così è successo per esempio qui nel mio condominio dell'Esquilino, e quando c'è stata a maggio la prima riapertura è nato così. I condomini del mio palazzo mi hanno detto: ma perché non ci fai uno spettacolo? E quindi io ho accolto questa proposta e ho fatto uno spettacolo che stavo provando sull'Orlando Furioso. È stata una serata magnifica, sembrava il nostro terrazzo diventare improvvisamente una piccola piazza di paese, c'erano i bambini che correvano e c'era anche una grande voglia di ritornare al teatro, ecco, di tornare anche a essere insieme, perché in quel periodo lì poi di teatro non c'è stato nulla se non il teatro in streaming, che però diciamo non è vero teatro. Allora presentiamo anche questo assemblaggio di diversi lavori. Parliamo innanzitutto del progetto di Sandra e di Concita De Gregorio. Noi siamo nella direzione artistica insieme a Alessandro Fabrizio, e tutto il progetto è una collaborazione con la festa del teatro ecologico di Stromboli, 5 produzioni con 379 gradi. Gli spettacoli sono spettacoli molto diversi tra di loro, che hanno in comune il fatto di mettere l'attore al centro, cioè sono veramente sì, spettacoli che magari hanno anche una regia, eccetera, però sono spettacoli in grado di resistere a qualsiasi mancanza, cioè sono l'attore da solo che racconta la storia. Sono tutti appunto senza spina attaccata, che è proprio anche un tratto distintivo della festa di teatro ecologico, senza corrente elettrica, senza luci, senza musiche registrate, quindi fatti più o meno verso il tramonto con la luce del sole. Senza amplificazione. E senza amplificazione, esatto. I luoghi che abbiamo trovato e abitato in queste serate sono luoghi diversi della città che raccontano anche una Roma un po' inedita, speriamo. Posti anche che noi stessi andando a cercare abbiamo trovato dei posti meravigliosi. Il primo spettacolo, che era con la compagnia Miti Pretese, Roma ore 11, è stato fatto in un terrazzo in via Savoia, al quartiere Salario. Un bellissimo terrazzo a due civici di distanza da via Savoia 31, dove in realtà tutta la storia di Roma ore 11 è ambientata. La storia racconta di un fatto realmente accaduto nel 51, quando in seguito a un annuncio di lavoro per una sola segretaria Miti Pretese per un primo impiego mal pagato, si presentarono 300 ragazze e le scale della palazzina crollarono e 80 di queste ragazze finirono all'ospedale e una morì. Questo è il racconto di cui poi Giuseppe De Santis fece un film l'anno dopo e Elio Petri scrisse un libro che erano le interviste alle ragazze, il racconto di quella Roma del 51, e quindi siamo andati a cercare proprio, volevamo provare a farlo proprio lì, in via Savoia. Via Savoia 31 non ce l'ha il terrazzo condominiale e quindi abbiamo trovato dei gentilissimi condomini di fianco che stanno ospitato sulla loro terrazza. Anche per gli altri spettacoli il luogo scelto è legato allo spettacolo? Sì, non magari in un modo così preciso e puntuale come per Roma ore 11, però abbiamo sempre cercato degli spazi che in qualche modo potessero collegarsi allo spettacolo. Sì, la seconda serata è stata fatta lunedì 20, era Mistero Buffo di Dario Po con Ugo Di Ghero, e l'abbiamo fatto invece in un grande cortile delle case popolari di un condominio di Rebibbia. Quindi un po' teatro di piazza proprio sembrava, perché era quasi una grande piazza con tanti bambini di tutti i colori, 8 condomini in realtà giravano intorno a questa grande piazza. La gente la poteva anche guardare dalle finestre, per cui aveva veramente un tipo di fruizione molto molto particolare. Poi si è seguito Piccoli Funerali di Maurizio Rizza. Questo invece è nel quartiere di Tor Pignattara, all'interno di un bellissimo spazio, una vecchia officina, adesso in realtà in disuso, dove sono accorsi tante persone del quartiere, e anche qui lo spettacolo è uno spettacolo molto intimo, molto commovente, molto delicato e molto personale, quindi diciamo in questo caso anche lo spazio era molto personale, era molto raccolto, sono tutti spazi diversi che se non c'entrano così direttamente come via Savoia, magari hanno però tutti sono stati cercati insomma che avessero una connessione, appunto una serata in una casa occupata, e il titolo che si farà è L'ambasciata americana, è un racconto di Chimamanda Ngozi Adichie, ed è fatto in collaborazione con un collettivo di donne che si chiama Women Crossing, un collettivo di donne che lavora all'Esquilino e che sono proprio abitanti di questa casa occupata in via Santa Croce in Gerusalemme, insieme all'attrice Roberta Sterzi. Poi ci siamo dimenticati invece quella del 24, che è il discorso sul mito, uno spettacolo sul mito di Dioniso di Vittorio Continelli, e questo è stato fatto al Mandrione, in un luogo che sembra quasi un piccolo paesino di campagna, su un prato a ridosso dell'acquedotto romano, sotto delle viti proprio, dove Vittorio raccontava il mito di Dioniso. E finirà l'ultima serata invece il 30, è Venere Adone di Shakespeare, con Laura Mazzi e Raffaella Misiti e Annalisa Baldi, chitarra e voce, che il poema di Shakespeare appunto letto da Laura Mazzi. Quindi sul sito internet del Teatro Argentina saranno riproposte le registrazioni di questi spettacoli? No, non sono esattamente gli spettacoli, è un lavoro di Lorenzo Letizia, un collaboratore del Teatro di Roma, che farà per ogni serata un riassunto della serata in modo da raccontare il luogo, i protagonisti, la storia, insomma. Non è l'integrale dello spettacolo, okay. Diciamo il video dell'integrale dello spettacolo è sempre un po' faticoso, ma è una specie di piccolo documentario che racconta lo spettacolo ovviamente, ma anche il quartiere, ma anche gli spettatori, che in questo caso sono tutti spettatori a invito, sono tutti condomini che vengono invitati a questa festa, serata speciale fatta proprio per loro, quindi non è la gente che va al teatro, ma il teatro che va nei quartieri, e c'è il sostegno del Teatro di Roma in tutto questo progetto e anche di Artisti 7607. Progetto Condominio sul sito internet del Teatro Argentina di Roma dal 30 luglio al 16 agosto 2020. Un saluto e un ringraziamento a Sandra Toffolatti e Paola Rota della direzione artistica. Un abbraccio, in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie mille. Con Roberto Castello, ideatore di Tempi Moderni, la commedia rivista, 31 spettacoli a Capannori, provincia di Lucca, dal 23 luglio al 2 agosto 2020. Roberto, ben trovato. Ben trovato a voi, un saluto a tutti. Ci racconti di questo esperimento? L'idea è nata in aprile, quando eravamo tutti blindati in casa, che non si poteva uscire, e da un lato c'erano molti colleghi che si sono trovati senza lavoro, senza introiti, quelli che avevano gli ammortizzatori sociali, avevano paura che sarebbero presto andati a finire, insomma c'era molta, una giusta paura del futuro nel settore. Dall'altro tutti i piani che avevamo fatto di programmazione nel territorio con il comune di Capannori erano evidentemente saltati, perché nessuno pensava sarebbe stato verosimile che in autunno riprendesse l'attività teatrale come se nulla fosse successo, e quindi ci siamo trovati a ragionare su che cosa farne di quest'anno e delle risorse che avevamo a disposizione. Insomma, chiacchierando un po', siamo addivenuti all'idea di pensare un qualche cosa che aggirasse completamente il problema del teatro, ma soprattutto che fosse la prima cosa che si sarebbe potuta fare laddove il lockdown si fosse appena alleggerito. E abbiamo pensato andare a fare spettacolo sotto casa delle persone. Ora, Capannori è un comune rurale molto grande, molto molto esteso, ci sono 40.000 abitanti, ma sparpagliati su un territorio molto molto vasto, e ci sono tantissime corti, tantissime aree rurali dove c'è una vita di famiglie che coesistono, e abbiamo pensato di congegnare degli interventi a costo bassissimo che potessero girare in molte corti, sapendo che se il lockdown fosse andato avanti il minimo sarebbe stato che le persone guardavano lo spettacolo dalle finestre, dalla porta di casa, dal terrazzo, dal balcone, no? Per viva Dio le cose sono andate un po' meglio di come temevamo, e quindi ieri sera abbiamo iniziato la rassegna, c'erano tra i 50 e le 100 persone ben distanziate per le due corti che abbiamo toccato, e abbiamo scelto con il comune di toccare 7 corti che attraversano il comune da nord a sud, c'è proprio una sorta di dorsale che attraversiamo. Ieri sera abbiamo toccato 3 corti, poi abbiamo fatto 4 mini produzioni, spettacoli che stanno sotto alla mezz'ora, che alternano danza, stand up comedy, testo, commedia, teatro di narrazione, insomma ognuno poi l'ha declinato al modo proprio, e abbiamo coinvolto 4 compositori che hanno scritto appositamente le musiche, 4 drammaturghi che hanno scritto i testi, cioè 4 danzatori, danzatrici che interpretano le musiche, e 4 attori che ovviamente interpretano i testi. Questa è un po' la dinamica veramente in breve. Poi i criteri di scelta di questi 31 lavori? I lavori sono 31, mentre come dire, gli spettacoli che noi produciamo e distribuiamo sono 28, perché questo lavoro è fatto in collaborazione con le officine culturali di Arezzo, che hanno fatto una piccola produzione molto carina sul lavoro di Petrolini. Quindi sono 31 perché in una serata loro vengono con il loro camioncino e si uniscono a questa cosa. L'idea era che chiaramente andando dentro a delle corti il tipo di rapporto che hai con gli spettatori non può essere lo stesso che hai a teatro, cioè a teatro il pubblico ti sceglie di uscire di casa, di venire da te, e di assumersi anche il rischio di venire proprio da te e non di andare a vedere un'altra cosa. Chiaramente andando dentro a delle corti che sono abitate da persone di ogni ceto, di ogni formazione, anche di ogni nazionalità, perché ovviamente come dire, molte sono multiculturali, il problema era trovare una cifra che gli abitanti delle corti potessero apprezzare, potessero gradire, no? Cioè essere come dire, entrare gentilmente in casa loro. Di lì l'idea di allacciarsi un po' a un'idea di commedia, di varietà, di una forma di spettacolo che abbia la capacità di catturare anche i bambini, che ce ne erano veramente tanti ieri sera, e non essere fuori, come dire, centrata per gli adulti. Quindi il problema che abbiamo posto agli autori che abbiamo chiamato è stato quello di dire proviamo a riallacciarci a quell'idea di teatro popolare colto che era rappresentato da Viviani, Petrolini, Chaplin e in tanti altri che soprattutto in prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale sono riusciti ad avere un grande rapporto con il pubblico e comunque a fare un lavoro estremamente raffinato. Alcuni erano Petrolini, come dire, era ammiratissimo dai futuristi, no? Eppure era estremamente popolare. Ora, perché dobbiamo rinunciare a cercare di riallacciare questo tipo di rapporto con un pubblico che non è quello convenzionale del teatro? Questa è stata la scommessa e ognuno l'ha declinata secondo la propria sensibilità. Devo dire, molto interessante, i lavori non si assomigliano per niente l'un con l'altro. C'è questa cosa, cioè noi non chiediamo il pagamento del biglietto, ma tutto il pubblico è stato informato che quello che proponiamo è che ciascuno doni cibo e beni di prima necessità, lì c'è un tavolo della Caritas che raccoglie e immette il tutto nel circuito della solidarietà sociale, cioè come dire la contropartita, se così si può dire, perché non lo è esattamente, che proponiamo ai nostri spettatori è tu benefici di uno spettacolo, porta, se c'hai l'orto porti le patate, i pomodori, quel che ti pare, così mettiamo in circolo delle risorse. Ieri sera la raccolta è stata impressionante, veramente impressionante. E questa è una cosa bella, insomma, fa piacere, anche quelli della carica si erano abbastanza sbalorditi della cosa. No, è un aspetto come dire, non secondario, però insomma, è una delle cose, quindi l'idea è dire facciamo degli interventi a costo bassissimo nelle corti, che però producono un concreto sostegno nel campo della cooperazione e solidarietà sociale. Ci dai tutti i riferimenti web per seguire il programma? Il sito dove si trovano tutte le informazioni sulla rassegna e soprattutto per le logistiche, perché appunto trovare le corti cioè bisogna prepararsi bene, perché se no non le si trova. Ci sono le geolocalizzazioni, cioè cliccando si hanno le coordinate da inserire in Google Maps. Comunque il nostro sito è spamweb.it, lì si trova tutto, www.spamweb.it. Tempi moderni, la commedia rivista, 31 spettacoli a Capannori, provincia di Lucca, dal 23 luglio al 2 agosto 2020. Un saluto e un ringraziamento all'ideatore Roberto Castello. Un abbraccio, grazie, un in bocca al lupo, a risentirci presto Roberto. A risentirci. Con Caterina Guida, organizzatrice della rassegna Restate in Scena, al Tempio di Giove Anxur e Parco Oasi a Terracina dal 1 al 30 agosto 2020. Caterina, ben trovata. Salve, buongiorno. Raccontiamo di quest'estate? Certo. Allora, l'idea è partita parlando con i miei soci del mio ufficio stampa, che appunto è Maresa Palmacci, durante la quarantena in cui eravamo incatenati dentro casa tentando di dare un senso alle giornate, abbiamo pensato, ma se dovessero riaprire o riaprirsi delle situazioni, ma perché non facciamo una bella rassegna al mare, che magari le persone hanno anche più voglia di uscire, così, e da lì è nata, diciamo, l'idea di fare questa rassegna di Terracina, e fino all'ultimo non sapevamo se veniva fatta per la questione di decreti o non decreti, e tutto in 2 mesi abbiamo organizzato e partiamo subito. Come saranno distribuiti nei 2 spazi gli spettacoli? Allora, gli spettacoli abbiamo pensato di dividerli a seconda anche dell'importanza, chiamiamolo così, degli attori. Per esempio il Monte di Giove abbiamo selezionato degli spettacoli sulla Grecia, come per esempio Daniele Pecci che porta La morte della Pizia, molto sulla mitologia, Elena Arvigo, anche una cosa sempre sul mitologico. Quindi abbiamo deciso di dividerli a livello un po' sul classico, su Altempio, mentre invece quelli un po' underground, come l'evento di Rino Gaetano, un evento Sfilata in cui noi facciamo parte di un progetto per le ragazze curvi, Grisù, Giuseppe e Maria, insomma ce ne sono tantissimi, e l'abbiamo divisi un po' così. Uno dei 2 luoghi, il Monte di Giove, è un luogo suggestivo e prestigioso. Assolutamente, si affaccia sul mare, soprattutto è molto suggestivo di notte, e poi ripeto, appunto per gli spettacoli che noi abbiamo, diciamo, scelto, sono proprio adatti, e staranno, penso quasi sicuramente tutti monologhi, quindi a maggior ragione ancora più suggestivo. Sulla scelta dei lavori, come vi siete mossi? Sono tutte compagnie che hanno lavorato con la nostra associazione a livello sia professionale che semiprofessionale, e quindi abbiamo deciso di dividere appunto i professionisti su Altempio di Giove e, diciamo, i semiprofessionisti, non perché siano professionisti, di mettere giù nel parco, perché sennò non rispecchiavano molto la tematica che ci avevano richiesto su Altempio, che poi era una location che noi l'abbiamo ottenuta proprio all'ultimo, perché fino all'ultimo non sapevano se si riapriva. Quando noi siamo partiti con il parco Oasi, ci hanno chiamati, hanno detto guardate, si è aperta la situazione al Tempio, allora lì noi degli spettacoli che già avevamo selezionato abbiamo detto ok, questi che sono un po' più di punta, dico portiamoli su assolutamente, così diamo un pochino più di rilievo sia alla rassegna sia anche agli artisti. Com'è la situazione cultura nell'area di Terracina? Ma devo dire che noi siamo rimasti piacevolmente sorpresi, perché non pensavamo di avere un riscontro così grande. Abbiamo detto va bene, dico Terracina, comunque una cittadina piccola, diciamo l'arte e la cultura va tantissimo, ma non in maniera così esorbitante. Invece abbiamo avuto un bacino di richieste, di pubblico, anche a livello, siamo usciti anche sul giornale locale, quindi il bacino risponde bene, diciamo, e quella è una cosa molto importante per noi. Ci dai tutti i riferimenti web per la programmazione? Si trova sulla nostra pagina Facebook, che è Associazione Culturale CASP. Basta che si clicca sul, diciamo, sul bannerino di ricerca e si trova la nostra associazione, che appunto noi ci occupiamo, facciamo piccola produzione, facciamo spettacoli teatrali e abbiamo in gestione varie sale nel territorio romano. Quindi su Facebook si trova tutto quanto, perché purtroppo il nostro sito è in costruzione. Per quanto riguarda il calendario, saranno quotidiani gli spettacoli? Come funzionerà? Allora, abbiamo sostanzialmente tutti i giorni occupati, quindi diciamo sono dal lunedì fino alla domenica. Gli orari di spettacolo sono sempre alle 21:30, giustamente magari le persone la mattina se ne vanno al mare e poi la sera vengono a farci compagnia. Per un totale di quanti spettacoli? 22. 22 spettacoli. Restate in scena al Tempio di Giove Anxur e Parco Oasi a Terracina dall'1 al 30 agosto 2020. Un saluto e un ringraziamento all'organizzatrice della rassegna, Caterina Guida. Un abbraccio. Grazie. In bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, salve, buongiorno. Con Giovanni Germano, coordinatore generale della 26esima edizione di Cammina Molise dal 1 al 4 agosto 2020. Giovanni, ben trovato. Ben trovato a te, eccoci qua. La 26esima. Un'edizione un po' particolare vista l'emergenza sanitaria, raccontaci un po'. Eravamo indecisi sinceramente se farla questa 26esima oppure no. Noi il programma già ce l'avevamo pronto, per febbraio di quest'anno, poi è arrivato il sabotto del Covid-19, ci siamo bloccati tutti e quindi non sapendo cosa fare abbiamo aspettato come hanno aspettato tutti per l'altra versione. Poi a giugno abbiamo deciso di farla comunque la manifestazione anche per non interrompere la continuità, però abbiamo dovuto modificare tutto il programma adeguandolo alle norme appunto del coronavirus, le norme di sicurezza. La nostra manifestazione, che è un trekking di 4 giorni, che ha, voglio dire, lo scopo quello di andare a visitare, far conoscere a piedi i borghi e il territorio bolzano, ha delle peculiarità che altri trekking non hanno. Noi siamo abituati a collaborare con tutti i comuni e le associazioni dei comuni con cui entriamo in sinergia, che ci danno un bel contributo per la preparazione e poi l'accoglienza dei marciatori. Quindi è una manifestazione, chiamiamola sinergica, insomma, noi che siamo un'associazione che collaboriamo con gli enti, con i comuni che attraversiamo e poi con tante altre associazioni che danno la propria collaborazione, le prologhe innanzitutto e così via. Quest'anno purtroppo questa collaborazione non è stata possibile perché appunto per le norme di sicurezza, quando si arriva nei paesi noi organizziamo una festa d'accoglienza insieme alle prologhe, insieme ai comuni, quest'anno non è possibile, quindi queste feste non potranno essere fatte. Come non possiamo mettere insieme un numero elevato di marciatori, insomma, noi negli anni scorsi portavamo in giro a camminare oltre 300 persone per 4 giorni, quest'anno ci siamo imposti di non ospitare più di 100 persone, proprio per via delle norme di sicurezza, insomma, anche perché è una bella responsabilità portare in giro tante persone e poi ovviamente garantire la loro sicurezza. Non è possibile ad esempio usare i pullman per gli spostamenti, noi ogni mattina, siccome i percorsi non erano in continuità ma variavano giorno dopo giorno in posti diversi, quindi i pullman accompagnavano i marciatori dal paese da dove si partiva e poi la sera si accompagnavano i marciatori in albergo. Quest'anno questo non è possibile, infatti stiamo andando dalla città di Campobasso dove c'è l'albergo e dopo aver percorso a piedi 15-20 km si ritorna a Campobasso, sempre allo stesso albergo, però i percorsi sono sempre diversi. In pratica si visitano il paese e il territorio con il centro Campobasso, quindi è un'area con 30 km di raggio. Quante saranno le tappe? Sono 4, la prima tappa è il 1° di agosto, poi il 2, il 3, il 4, il 4 finiamo. Ogni anno sono 4 tappe, l'anno scorso abbiamo fatto 6 tappe per la ricorrenza del 25esimo anniversario, proprio per festeggiare i 25 anni di questa attività associativa. Quest'anno siamo ritornati al numero solito di giorni di cammino, che sono 4. Noi abbiamo iniziato, forse come sai, ormai 26 anni fa, sì, nel 1995, partendo addirittura da Roma a piedi, eravamo 30 persone, per poi arrivare a un paesino del Molise, che poi è il mio paese, si chiama Durogna, 400 anni, dopo 4 giorni di cammino. Nacque questa idea per festeggiare il primo anno di attività di un mensile che si chiamava la Pianona, un mensile che è durato 10 anni, e il primo anno per festeggiare l'attività di questo giornale, eravamo tutti contenti che era arrivata un anno di vita. Cosa vogliamo fare? Siccome la redazione di questo giornale stava a Roma e quindi era un giornale che, come il Cammina Molise, aveva come scopo quello di far conoscere poi i paesi molisani e di metterli in relazione, insomma, anche per confrontarsi, per capire cosa si potesse fare 26 anni fa per far uscire dall'abbandono, insomma, queste piccole realtà locali, un problema molto sentito adesso, insomma, a livello anche nazionale, però noi già l'avevamo intuito ben 26 anni fa, insomma, quindi volevamo mettere insieme le forze migliori che erano più presenti nei vari paesi molisani che la nostra redazione riusciva a contattare per lavorare a una rivalutazione dei piccoli borghi, insomma. E quindi per festeggiare, però la redazione di questo giornale anche se composta da vari Muriciani e varie redazioni che poi in parte stavano a Roma, in parte anche dei soggetti insomma che operavano in questa redazione, però altri stavano anche in Molise, però il capo redattore, la redazione principale staccata era quella che stava a Roma, che dove si stampava anche il giornale, insomma, però il lavoro di redazionale veniva fatto anche in Molise. Quindi noi abbiamo pensato, per festeggiare il primo anno della vita di questo giornale, di tornare al paesello a piedi, come per simboleggiare il ritorno al paese dei nostri genitori che invece sono venuti a Roma qualche decennio prima appunto di quegli anni là per venire a lavorare, ci venivano a piedi, insomma è una bella impresa, e anche per rendere omaggio a loro dicevamo rivogliamo ritornare al paese a piedi, e così abbiamo fatto. E come poi fu un successo sta marcia, cioè eravamo 30 pazzi insomma che ci sono appena camminati per arrivare con le scarpe tutte rotte al paese, dove venivamo accorte dalla banda, una fosse enorme, bellissima, cioè, allora, rifacciamola, e quindi questo sarà un nuovo lavoro che si affiancherà a quello del giornale per promuovere i nostri piccoli paesi, questo. Solo che poi i 30 marciatori del primo anno sono diventati 350 lo scorso anno, ormai viene gente da ogni parte d'Italia, anche dall'estero, per venire a conoscere il Molise, che quest'anno va tanto di moda parlare di Molise, però noi abbiamo il privilegio e la fortuna di aver iniziato. E io posso dire che dopo 25 anni ho il privilegio e la fortuna di aver conosciuto tutti e 136 paesi molisani camminando. Forse sono l'unico molisano. Giovanni, in chiusura ci dai tutti i riferimenti internet per la programmazione? Sì, basta collegarsi al nostro sito, la nostra associazione si chiama La Terra, Associazione Culturale La Terra, quindi www.laterra.org. Sì. Nella home page c'è la pagina riservata a Cammina Molise del 2020 e lì ci stanno tutte le indicazioni, anche per chi volesse ancora iscriversi, ci è rimasto qualche altro giorno di tempo, insomma, qualche altro posto c'è. 26esima edizione di Cammina Molise, dal 1 al 4 agosto 2020, un saluto e un ringraziamento al coordinatore generale Giovanni Germano. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto Giovanni. Grazie a te, grazie a tutti. Con Tiziano Panici, direttore artistico della 7ª edizione di Dominio Pubblico, dal titolo Fuori Fuoco. Dal 24 luglio al 2 agosto 2020 a Roma, Teatro India e Spazio Rossellini. Tiziano, ben trovato. Ben trovato a te Federico, è un piacere risentirti e ecco, tornare diciamo alla vita in questo momento. Quindi ci stiamo preparando per questi weekend di luglio che saranno appunto due weekend di fuoco sicuramente. Raccontaci un po' quali caratteristiche dopo questo lungo periodo anche doloroso di chiusura. Per chi non lo conoscesse, Dominio Pubblico è un progetto molto articolato che in realtà si sviluppa durante tutto l'anno e di cui il festival è soltanto in qualche modo il culmine, è come se fosse un po' la punta dell'iceberg. Il progetto nasce come un percorso di audience development, cioè praticamente di formazione e avvicinamento del pubblico, in questo caso un pubblico giovane che viene chiamato dall'inizio dell'anno prima di tutto a formare il proprio sguardo nei più importanti spazi della capitale. Il nostro principale partner da ormai 5 anni è il Teatro di Roma, il Teatro Nazionale, quindi diciamo che loro vengono allenati a questa dieta culturale e teatrale che inizia frequentando i cartelloni del Teatro Argentino e del Teatro India, però poi in realtà li portiamo anche in tutti gli spazi più off e più underground, visto che poi questo è un progetto che nasce da quegli spazi, in particolare dal Teatro Arco Studio e dal Teatro dell'Orologio. Questo ha fatto sì di riuscire a creare una grande rete di partner nel corso degli anni, e quest'anno una nuova generazione, 20 ragazzi, hanno preso parte al progetto e sono diventati praticamente direzione artistica di questo nuovo 7º episodio di Dominio Pubblico. Se non che chiaramente a marzo, sappiamo tutti benissimo quello che è successo, le nostre vite sono cambiate completamente e noi ci siamo ritrovati chiusi in casa con i teatri chiusi E nonostante questo, lo sforzo che abbiamo fatto, come tantissimi appunto poi anche nell'istituzione universitaria e scolastica, anche dominio pubblico non si è fermato, ha continuato a dialogare con i ragazzi, ci siamo riuniti online, abbiamo invitato ospiti nostri partner, abbiamo continuato a fare la selezione nella speranza che tutto il lavoro fatto quest'anno potesse in qualche modo essere recuperato. Questa speranza per fortuna è stata in qualche modo esaudita anche grazie appunto alla collaborazione sia con il Teatro di Roma che con lo Spazio Rossellini, che invece è un polo contemporaneo che è inaugurato da pochissimo, voluto dalla Regione Lazio, su cui appunto Dominio ha già mosso alcuni primi passi a dicembre, e grazie a questi due spazi è stato possibile recuperare le date 24, 25, 26 luglio e 31 luglio, 1 agosto e 2 agosto. Il festival si svolgerà in contemporanea su questi due luoghi, però con delle nuove regole, con delle nuove condizioni un po' particolari. Quindi queste condizioni sono praticamente quelle di aver dato vita ad un festival ibrido. Che significa? Significa che praticamente tutto quello che verrà realizzato al Teatro India avverrà live, quindi ci sarà un biglietto unico di 5 euro con cui sarà possibile accedere all'arena acquistandolo online. Questo servirà anche un pochino a regolare i flussi e purtroppo a dover rispettare quelle che sono chiaramente le regole sanitarie che ancora ci impongono il distanziamento, però c'è una grande platea di comunque 150 posti che può accogliere tutto il pubblico, e il resto dello spazio esterno comunque sarà attraversato da performance e da piccoli concerti musicali. C'è un bellissimo bar che è stato appena inaugurato e questo è fantastico, perché significa poter ritrovare una dimensione dal vivo reale dello spettacolo. Dall'altra parte invece allo spazio Rossellini verranno ospitate tutte quelle performance e soprattutto la danza che purtroppo non hanno la stessa facilità di adattarsi ad uno spazio aperto, no? Perché a India abbiamo un palco molto grande che però non consente di poter fare il buio completo, non si può lavorare prima delle 21, quindi per molti artisti è complicato, e che lo spazio Rossellini ci ha offerto la possibilità di avere il massimo della tutela. Ovviamente ci sarà un ridottissimo numero di posti dal vivo, si potrà solo prenotare online fino a un massimo di 40 posti, gli spettacoli verranno trasmessi in streaming sui nostri canali social. Quindi veramente la natura del festival diventa veramente ibrida, doppia. E facciamo questo esperimento a due velocità, una appunto che corre su quello che deve essere il teatro, cioè dal vivo è fluido appunto in presenza, dall'altra parte però invece ci lanciamo anche in questo esperimento di regia streaming live, che comunque potrebbe essere un esperimento importante, ci potrebbe rivelare importante anche per il futuro della fruizione di un certo tipo di eventi. E questo faremo anche con il cinema, Cinema Under 25 di dominio pubblico, che quest'anno, sempre in questo tema appunto di massima fluidità e abbattimento dei generi, vedrà in qualche modo protagonisti alcuni partner che sono Giro Giro Corto e le giornate del cinema queer. Invece che appunto poter proiettare dal vivo, cosa che non sarebbe stata possibile, i corti di questi giovanissimi autori verranno tutti trasmessi in un palinsesto, trasmetteremo sulla pagina Facebook di dominio pubblico che si chiama DP Play praticamente. Per tutte le informazioni, riferimenti web? Il programma lo trovate già pubblicato su www.dominiopubblicoteatro.it, però in realtà seguiteci sui nostri social, sia su Instagram che su Facebook, dominio pubblico lo trovate molto facilmente, e vi ripeto, sulla pagina Facebook verrà praticamente trasmesso buona parte del programma tutta in streaming. Quindi il mio consiglio è, se state insomma ascoltando, agganciatevi alla pagina, guardate i nostri eventi e non appena saremo pronti ad andare on air ci troverete lì. Fuori fuoco, settima edizione di dominio pubblico, dal 24 luglio al 2 agosto 2020 a Roma, Teatro India e Spazio Rossellini. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Tiziano Panici. Un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie Federico, grazie a tutti, un abbraccio grandissimo, spero di vedervi presto dal vivo, veniteci a trovare al festival. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.